Pomeriggio dopo stronza, chiacchieri con gli amici, con discorsi del tipo Jason, ma che minchia dici? Penso che ho tanti testi ammucchiati senza scopo e non ho intenzione di rileggerli sei anni dopo. Mi viene un flash, idea da malato senza cognizione. Parlo con Giacalone e gli spiego la mia intenzione. Mi arriva il Mac tipo fra una settimana e tipo fra una settimana faccio un disco tipo in una settimana. Monto lo studio e chiamo Ra con Sky. Tu mandami due beat che sono preso male e mi aiuterai. Chiamo Dona e Tabone, Tommy e Speaker Sal. Gli chiedo la collaborazione in tutta velocità. Ho fatto il re dei gradassi, resto sui miei passi. Mi sbrigo e smonto passi sui beat più grassi che sarebbero stati persi e sarei diventato pazzo. Meno male che mi è venuta sti via del cazzo.